Ninna nanna degli abbracci, delle coccole e dei baci. Ninna nanna, chiudi gli occhi e fai bei sogni tu. Ninna nanna degli abbracci, dei sorrisi e dei baci. Ninna nanna, chiudi gli occhi e fai bei sogni tu. Delle carezze e dei baci. Ninna nanna, chiudi gli occhi e fai bei sogni tu. Ninna nanna degli abbracci, con le stelle quanti baci. Ninna nanna, chiudi gli occhi e fai bei sogni tu. E fai bei sogni tu, e fai bei sogni tu.